romagnolo è più buono e più cortese. Con le sue dolci vigne e collina beviamo fino a mattina. Ci ubriachiamo in osteria, la fine fino ci tengono compagnia. Cantiamo come dei porci, una squadra con lo stomaco. Sole. canzone di grosso gigione. Mellitis è famoso di un grosso tormentone. Appena arriva a scuola si becca col ceffone. Qualcuna addirittura gli tira un bidone. Gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione. Ti fai portare a scuola ancora la colta. Quando ti fai la bua voglio piangere da mamma. L'acqua del gesso, la tua cartella fuori finirà. L'ora di supplenti qui da scatalla. Bucce di banana ti dà da sul ciglio. Si ribelle, si dimena, non ci fa nessuna pena. Continuiamo a cantare tutto il dì. Gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione, gigione. Fatto triste, sconvolse. Gigione a colazione non aveva assunto la sua dose di psicotron. Gli ribaltiamo la cartella, tiriamo cessi a sparella. Di brutto si incazzò. Faccia via delle sedie con le sue braccia nardose. Afferra un banco e solleva, lo tira addosso a 4.000 vittime. Improvviso un titolato. Sono il Gigione, sono un gran coglione. A scuola io ci vado sempre con un bividone. Perché i miei compagni mi picchiano perché io sono un uomo bidone. Io sono il Gigione Lerci, il Gigione Lerci, il Gigione Lerci. Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, sei un coglione. Gigione, Gigione, Gigione, Gigione. Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gigione, Gig